grande basilica della cristianità. O quasi. Oggi è impossibile immaginare Piazza Maggiore senza il suo simbolo per eccellenza, la Basilica di San Petronio, l'ultimo monumentale esempio di architettura tardo-gotica in Italia, la cui costruzione iniziò nel 1390 e si protrasse per i 3 secoli successivi, rimanendo tuttavia incompiuta. E questo non solo per quanto riguarda la facciata, la cui copertura in marmo non è mai stata completata, ma anche per il resto della struttura. Un esempio? Da Piazza Maggiore imboccate via dell'Archiginnasio. Compiuti alcuni passi vi renderete conto che sul fianco, vicino all'abside, c'è una finestra mozzata a metà. Quello che vedete avrebbe dovuto essere un braccio del transetto, in modo da donare alla basilica l'aspetto di una croce, ma che è stato troncato. Il motivo? Sarà più chiaro tra poco. Per raccontare la travagliata storia della costruzione della chiesa, partiamo dalle insolite modalità con cui venne concepita. La decisione di innalzare una basilica dedicata al santo patrono della città, infatti, non partì dagli ambienti ecclesiastici, ma nacque per volontà civica nel 1388, come atto di fede, ma anche come testimonianza degli ideali di libertà e autonomia del comune, all'epoca retto dal Consiglio dei 600. Si tratta insomma di un monumento religioso e laico allo stesso tempo, un'apparente contraddizione che si spiega soltanto comprendendo gli assetti e gli equilibri tra i poteri presenti in città in quell'epoca. Al finanziamento partecipò l'intera cittadinanza e coinvolse tutti gli strati sociali, a riprova di quanto questa iniziativa fosse cara alla popolazione. Fu incaricato dei lavori il maestro Antonio Di Vincenzo, costruttore del Palazzo della Mercanzia e del Palazzo dei Notai, il quale, dopo aver realizzato i bozzetti, costruì un modello in scala dell'edificio lungo ben 15 metri, per mostrare l'aspetto che nelle sue intenzioni avrebbe dovuto avere la basilica. Pianta a croce latina della lunghezza di 183 metri con un transetto di 137, dotata di ben 4 campanili. Venne così fondata la Fabbriceria di San Petronio e per far spazio al cantiere si provvide a demolire gli edifici che sorgevano a ridosso della piazza, tra cui 8 chiese e numerose torri. La prima pietra fu posta il 7 giugno 1390, al termine di una cerimonia solenne che coinvolse tutte le autorità, civili ed ecclesiastiche. Purtroppo però le cose cominciarono a complicarsi già all'inizio del 400, con la morte di Antonio Di Vincenzo e 2 sole campate e le 4 cappelle laterali compiute. Ciò avvenne in concomitanza con l'arrivo a Bologna del perfido Baldassarre Cossa, il quale, per assicurarsi che la chiesa non venisse terminata, si affrettò a vendere i mattoni, il legname e tutto il resto del materiale edile presente in cantiere. Cossa era così ostile all'edificazione della basilica, simbolo dell'orgoglio comunale che costui con tanta disinvoltura intendeva calpestare, da ordinare anche la distruzione del modello in scala e dei progetti realizzati da Antonio Di Vincenzo. Il comune tentò di ridare impulso alla fabbriceria più volte durante il 400, ma la vera svolta sarebbe arrivata nel 1507, quando venne affidato all'architetto Arduino degli Arriguzzi l'incarico di completare l'opera. Il progetto che presentò era ancora più ambizioso di quello di Antonio Di Vincenzo, in quanto prevedeva di ampliare la struttura fino a 224 metri di lunghezza e 158 metri di larghezza, che avrebbe fatto della Basilica di San Petronio la chiesa più grande della cristianità, più grande ancora della Basilica di San Pietro in Vaticano. Ben presto però ci si rese conto che adattare l'architettura esistente al nuovo progetto sarebbe stato troppo oneroso. Uno degli aspetti che diede maggiori grattacapi fu la maestosa cupola, che avrebbe dovuto poggiare su 8 enormi pilastri, ma che creava enormi complicazioni alla struttura. Nonostante il cantiere fosse ancora aperto, nel 1530 Carlo V elesse la Basilica di San Petronio come sede in cui essere incoronato imperatore del Sacro Romano Impero da parte di Papa Clemente VII. Dopotutto, all'epoca Bologna era una delle città più importanti dello Stato Pontificio, seconda soltanto a Roma. Nel 1562, il colpo di scena. Papa Pio IV, probabilmente per impedire che la Basilica di San Petronio superasse in grandezza quella di San Pietro, si adoperò per dare una sede definitiva all'Università Bolognese, affidando ad Antonio Morandi, il Terribilia, l'incarico di realizzare il Palazzo dell'Archiginnasio. La collocazione? Proprio a ridosso del fianco orientale della basilica, a soli 12 metri di distanza, impedendo così che si potesse estendere il transetto. Il fatto che il Papa intendesse davvero boicottare la costruzione di San Petronio o soltanto consolidare la sua influenza sull'istituzione universitaria è ancora oggetto di dibattito. Ma non può essere un caso che la costruzione dell'archiginnasio avvenne a tempo di record e fu completata in poco più di un anno. La fabbriceria proseguì l'attività fino al 1663, anno in cui i lavori di edificazione vennero considerati conclusi. Con i suoi 132 metri di lunghezza, i 60 di larghezza e l'elevazione di circa 45, è la quarta chiesa più grande d'Italia e la chiesa gotica in mattoni più grande del mondo. Se siete curiosi di vedere come avrebbe potuto essere la basilica, potete recarvi nel Museo di San Petronio, che si trova nella navata sinistra della chiesa. Lì è presente il modello in scala, insieme ai progetti cartacei realizzati da Arduino degli Arriguzzi. Nel museo sono presenti anche due diversi modellini realizzati verso la fine del Cinquecento e che scatenarono un'accesa discussione su come fosse opportuno completare la basilica. Tra gli artisti che hanno dato il loro contributo alla facciata ricordiamo Jacopo della Quercia, autore del portale d'ingresso. I bassorilievi raffigurano le storie della Genesi e furono studiati attentamente dal giovane Michelangelo durante la sua permanenza a Bologna. Quest'ultimo ne fu così impressionato da riprodurli nella decorazione della Cappella Sistina. Michelangelo avrebbe altresì definito la Madonna col Bambino e i Santi Petronio e Ambrogio, presente nella lunetta del portale, come la più bella Madonna del Quattrocento. La più lunga